perfetto giorno di Simone Spezia. Se qualcuno si fosse fermato sarebbe ancora viva. Così il procuratore che indaga sulla ragazza uccisa a Roma ha confessato l'ex fidanzato che l'aveva minacciata. Migranti, il sistema di accoglienza è in difficoltà. Il Viminale vuole 70 posti in più per ogni provincia. Gli immigrati di Ventimiglia dopo lo sgombero sono dentro una chiesa. Blitz contro il clan che operava nel parco dei Nebro. Di una ventina di arresti scoperti i centri nei quali si organizzavano le truffe all'Europa e anche un macello clandestino. Nubifragio a Milano, strade allagate, traffico in forte difficoltà in tutta la città, alberi caduti e stato di preallerta per il fiume Seveso. Pantelleria invece brucia, da 3 giorni un incendio sta colpendo l'isola e tutte le località turistiche, i Canadair non bastano, in fiamme anche la rete di contenimento antifrane. In sciopero gli addetti alla spazzatura in tutta Italia e i problemi principali già dai giorni scorsi ci sono a Roma anche per una serie di assemblee spontanee. A Brescia ad ottobre apre un nuovo maxi store dell'IKEA, anche se pagano loro niente autobus fino al centro commerciale, dice il sindaco, dobbiamo tutelare i piccoli negozi, parleremo con lui. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti sono i soliti, 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, c'è anche il nostro canale Telegram, telegram.me/effettogiorno e poi la nostra mappa che potete raggiungere sul sito nella quale trovate i file audio del nostro giro per l'Italia geolocalizzati. In apertura dunque la cronaca con le indagini sull'assassinio della ragazza a Roma. Ha confessato Vincenzo Paduano, l'ex fidanzato di Sara Di Pietrantonio, fermato con l'accusa di omicidio. Dopo un lungo interrogatorio, il giovane è crollato e ha ammesso le sue responsabilità. Il ragazzo, che ha 27 anni, era stato lasciato da poco dalla studentessa 22enne trovata morta semicarbonizzata all'alba di ieri, poco lontano dalla sua auto in fiamme alla periferia di Roma. Dalle indagini è emerso che Vincenzo Paduano, dopo l'omicidio, era già tornato al lavoro. Ma l'aspetto ancora più inquietante della vicenda è che prima di essere raggiunta dal suo assassino, la ragazza ha provato a chiedere aiuto a degli automobilisti. Nessuno però si è fermato. Se l'avessero fatto, Sara sarebbe ancora viva. L'invito del sostituto procuratore di Roma, Maria Monteleone, alla conferenza stampa in questura. Un invito caldo a chi si imbatte in una ragazza che chiede aiuto, a non essere indifferente, a non voltarsi dall'altra parte. E poi l'invito a tutte le ragazze a denunciare i loro stalker. L'invito sincero alle ragazze a confidarsi, a denunciare, a non tenere nascosti comportamenti, condotte persecutorie, di minacce, perché non si può restare soli di fronte alla violenza. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla situazione dei migranti, molti fronti, iniziamo da quello generale nazionale. Sono oltre 13.000 i migranti soccorsi in questi giorni nel canale di Sicilia per far fronte all'ultima ondata di arrivi. Il Ministero dell'Interno ora chiama in causa le province. 80 sono state mobilitate per far fronte all'accoglienza. Ognuna dovrà ospitare almeno 70 profughi, fa sapere una circolare inviata dal Viminale alle prefetture, che punta anche a riequilibrare la ripartizione degli immigrati sul territorio. Salviamo quante più vite possibili sapendo che non c'è nessuna invasione. I numeri sono sempre gli stessi, commenta stamattina il premier Renzi, secondo il quale l'Italia sta facendo la sua parte e ora anche l'Unione Europea sembra intenzionata a scommettere sul Migration Compact proposto dal nostro paese. I numeri dell'ONU nel frattempo confermano che quella appena passata è stata una delle peggiori settimane sul fronte degli arrivi, con 3 naufragi, 65 corpi recuperati e 700 dispersi, fra i quali almeno 40 bambini. A Reggio Calabria oggi sono stati fermati 2 senegalesi ritenuti gli scafisti di uno dei barconi colati a picco nel canale di Sicilia, causando la morte di almeno 45 persone. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E andiamo su uno dei vari fronti, quello di Ventimiglia. Alla foce del fiume Roia, a Ventimiglia, non c'è più nessuno. Soltanto ieri molti turisti avevano fatto in tempo però a fotografare il nuovo accampamento di migranti che si era trasferito lì dopo mesi in cui era rimasto nascosto ai più sotto un cavalcavia vicino al greto del fiume. Quelle tende tornate sulla spiaggia, la richiesta pressante dei migranti di passare il confine senza essere identificati in Italia ha spinto il sindaco ad emettere un'ordinanza di sgombero. Ma quando questa mattina all'alba la polizia è arrivata sul campo, la notizia era già circolata. immacolata, in molti, la sera, erano andati nella parrocchia di San Nicola, una chiesa centrale a Ventimiglia. Il parroco, Don Francesco, se li è trovati davanti appena finita la messa, a poche ore dalle parole del Papa, che esortava ad accogliere e aprire le porte delle chiese. Io, quando ho finito la messa, loro sono arrivati senza dirmi nulla, avevano già occupato il cortile. Così è passata la notte e questa mattina sono arrivati i volontari della Caritas a distribuire da mangiare agli oltre 100 sans-papiers. Sono d'accordo in tenere le porte aperte per tutto il tempo che loro ne hanno bisogno. Se la polizia chiede a me il permesso di entrare semplicemente, allora io mi oppongo. Lanciò un appello ai parroci della diocesi affinché seguano l'esempio di Padre Francesco e aprano le porte delle loro parrocchie ai migranti. A parlare il vescovo di Ventimiglia, Antonio Suetta, che in queste ore è in trattativa con la prefettura di Imperia per la realizzazione di una tendopoli nel parcheggio del seminario a Bordighera. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E più avanti torneremo a parlarne nel nostro consueto giro per l'Italia. Lo faremo andando a Salerno e parlando con il prefetto, dove a Salerno, appunto, dove c'è una delle situazioni più critiche. Adesso ci spostiamo a Milano, dove il nubifragio di questa mattina sta continuando a creare problemi. Di pochi istanti fa la notizia dell'esondazione del Lambro. Raffaella Calandra, buongiorno. Sì Simone, ora, come dicevi, è esondato anche il Lambro, uno dei due fiumi tenuti sempre sott'occhio insieme al Seveso, e alcune strade della città sono state chiuse. La settimana è cominciata con lampi e tuoni a Milano e le conseguenze si sono viste subito dopo: strade allagate, semafori in tilt, guasti al metro e alle linee ferroviarie, più di 200 chiamate ai vigili del fuoco e pure una scuola evacuata. Un violento nubifragio intorno alle 10 ha mandato letteralmente in tilt il capoluogo lombardo. Quando questa mattina in via Mauri, zona centrale della città, i vertici dell'istituto scolastico hanno notato infiltrazioni dal soffitto, per precauzione hanno chiamato i vigili del fuoco e fatto uscire i ragazzi. Poco lontano il temporale bloccava il Malpensa Express diretto all'aeroporto e per quasi un'ora pure la stazione centrale è stata isolata, nessun treno in partenza né in arrivo. La violenza delle piogge ha fatto cadere un albero e interrotto la circolazione della metro Lilla, la più nuova, ma guasti elettrici hanno rallentato i viaggi pure delle altre linee metropolitane e spento i semafori, con conseguenze per il traffico. Ora appunto anche la notizia dell'esondazione del Lambro e della chiusura di alcune strade. Insomma, un inizio di settimana assai faticoso per Milano e le previsioni non promettono niente di buono per tutta la settimana, e gli unici forse a non essere troppo dispiaciuti saranno i 9 candidati sindaco, fiduciosi che le piogge portino alle urne più persone. Simone. E grazie Raffaella Calandra per questo aggiornamento. Dall'altra parte d'Italia, mentre a Milano si lotta con l'acqua, si lotta con il fuoco, avviene sull'isola di Pantelleria da 3 giorni, c'è un grande incendio che non si riesce a spegnere, siamo in linea con Salvatore Gino Gabriele, che è il sindaco. Sindaco, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Qual è il quadro della situazione? Ce lo dà? Beh, il quadro della situazione naturalmente ora dopo ora sta migliorando, per fortuna. Abbiamo i Canadair che ancora stanno operando, perché ancora abbiamo sacche di fuoco qua e là in giro per oltre 600 ettari di estensione. Sono stati toccati tra l'altro anche i luoghi turistici più famosi e più noti dell'isola, no? Mi sembra di aver capito. Sì, tutto il versante sud naturalmente ha subito un crollo, nel senso che naturalmente lì è andato a fuoco, quindi la situazione è difficile, insomma, anche da raccontare. Difficile, ancora non spento e danni gravissimi, suppongo. Assolutamente sì. Cioè, dai danni agroambientali al rischio idrogeologico, a tanti sentieri che erano i percorsi naturali di tanti escursionisti. Quindi naturalmente dobbiamo fare i conti con questa situazione, ma dall'altra parte, come ci dicevamo stamattina in una riunione con gli operatori turistici e anche delle produzioni tipiche, naturalmente si va avanti e si riparte. Ecco, questo è la forza con la quale il messaggio che noi comunque parte dall'isola è questo. Siamo impegnati perché la stagione estiva vada avanti, e con tutte le attività che ci sono, con i voli charter, con l'organizzazione, con gli eventi, con le iniziative. Quindi questo sicuramente non ci è chiaro che crea molto turbamento, uno stop provvisorio, ma come dire, ripartiamo. In bocca al lupo dunque e buon lavoro, sindaco Gabriele, sindaco di Pantelleria, per essere stato con noi. Oggi sciopero del personale che si occupa della raccolta dei rifiuti, i sindacati parlano di adesione al 90%, a Roma alcuni dei maggiori problemi che si intrecciano tra l'altro con la campagna elettorale. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì Simone, uno sciopero nazionale che avrà conseguenze anche sul voto delle amministrative a Roma, il 90% dei netturbini incrociano le braccia in tutta Italia, la protesta accade poi dopo il fine settimana in cui la raccolta è normalmente ridotta al 40% e per il 2 giugno giovedì è prevista una nuova riduzione del servizio a causa del giorno festivo a Roma, dove la situazione è al limite, la stensione dell'AMA è prevista per l'intero turno di lavoro e si concluderà intorno alle 4:30 di domani mattina. Nella capitale i lavoratori sono in piazza, un presidio davanti a prefetture e comuni e davanti alla sede dell'associazione datoriale Utilitalia. Tutto questo dopo il rapporto di Confartigianato che ha delineato un quadro disastroso per quanto riguarda i rifiuti nella capitale. Il rapporto costo-beneficio tra cittadini e servizio della raccolta dei rifiuti è peggiore d'Italia dopo Palermo. La raccolta di immondizia costa ai romani il 50,9% in più rispetto alla media nazionale e appena il 9% dei cittadini trova Roma pulita. Altro capitolo, sempre per quanto riguarda le amministrative, sono le polemiche relative all'intervista di Luigi Di Maio del Movimento 5 Stelle in caso di vittoria di Virginia Raggi a Roma. Il vicepresidente della Camera ha lanciato l'assessorato pro tempore alla riorganizzazione delle partecipate. Il PD accusa Raggi e il Movimento 5 Stelle di non lasciare, di dare praticamente libertà vigilata alla sua candidata a Roma. A te Simone. E grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. A proposito di rifiuti, oggi inizia il piano della Campania per il trasferimento delle ecoballe. Laura Viggiano, buongiorno. Sì, buongiorno. Oggi è iniziata la rimozione delle ecoballe. Si parte dal sito Taverna del Re a Giuliano, che doveva essere un sito per 4 milioni di balle contenenti combustibile da rifiuti, ma poi in tempi di emergenza e mala gestione ci è finito dentro un po' di tutto. È stato sprecato 1,5 miliardi per fare un disastro, ha detto il presidente della Regione De Luca, promettendo che oggi comincia un lavoro che eliminerà la terra dei fuochi. Ci sono pentiti che hanno parlato anche di siti gestiti dalla Camorra, ha ricordato. Oggi si parte con un progetto per la rimozione delle ecoballe che a Taverna del Re sono coperte da teli in buono stato, molto diversi da quelli che abbiamo visto in passato, quando si era evidenziato che l'incuria aveva anche rovinato la parte buona di ecoballe mai smaltite. Il piano è finanziato con 400 milioni complessivi, si inizia con un bando da 150 milioni pubblicato lo scorso dicembre che vede impegnate diverse associazioni temporanee di impresa, riguarda lo smaltimento di 1 milione di ecoballe che andranno sul totale di 5 milioni 600 mila fuori regione. Una parte pare sia destinata a Spagna e Portogallo, ma al momento non c'è ancora un'autorizzazione a portarle all'estero definitiva. Con altri 2 milioni si prevede di produrre combustibile secondario da rifiuto e l'altra parte restante dovrebbe andare a colmare la parte sventrata da cave delle colline distribuite nella regione Campania. Ricordiamo che il mancato smaltimento delle ecoballe, oltre che della bonifica dei territori, il mancato completamento degli impianti costano attualmente 120.000 euro al giorno di multa inflitta dall'Europa. Per scrivere la parola fine ci vorranno ancora anni e non manca ovviamente lo scetticismo. All'esterno del sito oggi c'era un gruppo di lavoratori dei consorzi di bacino che sono stati impegnati negli anni, lamentano 43 mesi di arretrati e hanno messo in seria discussione la possibilità di arrivare al completamento del lavoro. Insomma, si spera che non sia l'ennesimo inizio senza fine. Ti ringrazio, grazie Laura Viggiano per questo aggiornamento. Prima di chiudere, di andare a sentire che cosa succede sulle strade, torniamo su questa marcia di avvicinamento che stiamo facendo verso l'inaugurazione, così alleggeriamo un po', verso l'inaugurazione di questa grande opera d'arte realizzata dall'artista Cristo sul lago di Iseo, queste passerelle galleggianti che con una sorta di provocazione consentiranno appunto di camminare sull'acqua. È un problema anche di organizzazione per i comuni della zona, stiamo sentendo i comuni della zona e non solo loro in questi giorni, si inaugura il 18 giugno. Paola Pezzotti, sindaco di Sulzano. L'organizzazione è partita tempo fa, devo dire mesi fa, c'è stata una grande collaborazione con gli enti superiori, dalle province alla regione, alla stessa Trenord che ha potenziato i treni. A Sulzano non si può arrivare in macchina in forma, come dire, autonoma. Bisogna usare i mezzi pubblici o tutto il sistema che è stato strutturato e organizzato nel piano mobilità e viabilità per raggiungere Sulzano. Perché lo ricordiamo agli ascoltatori, forse non l'abbiamo specificato prima, però l'installazione non è che resta là, è un'installazione che durerà per un paio di settimane complessivamente. Quanta gente è attesa? Perché qualcuno dice 700.000, altri dicono se arriviamo al milione è finita, non reggiamo. Il sistema che appunto vi ho descritto prima sorregge circa 60.000 persone giornaliere, queste sappiamo di essere in grado di accogliere dignitosamente e di saperle gestire sui territori. Quindi più o meno al milione sareste in grado di arrivare al milione nell'arco dei 16 giorni? Sì, poi essendo comunque l'opera distribuita, cioè l'opera aperta 24 ore, se questi numeri si distribuiscono appunto nelle 24 ore, sicuramente la sostenibilità diventa molto più fattibile. Se il numero è sostenuto in 10 ore giornaliere, allora cominciano ad esserci dei seri problemi. Certo, naturalmente diventa un problema, soprattutto se avviene all'italiana, nel senso che si svegliano tutti gli ultimi 4 giorni e si fiondano sul lago di Iseo, no? Sì, sicuramente, ma non credo. E così dunque Paola Pezzotti, sindaco di Sulzano. Il prossimo venerdì andremo a sentire magari un altro sindaco. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, poi continueremo, perché in realtà l'abbiamo già iniziato nella prima parte della trasmissione, il nostro giro per l'Italia. Andremo a Salerno per parlare con il prefetto del tema dell'accoglienza ai migranti, perché molti arrivano proprio nel porto di Salerno e quindi ovviamente là il problema è particolarmente sentito. Con Natale Di Cola, segretario regionale del Lazio, funzione pubblica della CGIL, per questo sciopero dei netturbini, e poi andremo anche a parlare col sindaco di Brescia più avanti nel corso della trasmissione, che ha un po' una mezza querelle con IKEA, col fatto che apre un megastore e che ha deciso che non vuole estendere la linea degli autobus fino a là perché bisogna tutelare i negozi del centro storico. Tra poco. SMAO Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smao.it vi presenta. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato dell'omicidio della ragazza a Roma, della confessione dell'ex fidanzato e anche dell'appello del procuratore che dice denunciate appena ricevete una minaccia. Abbiamo parlato del sistema di accoglienza in difficoltà per quanto riguarda i migranti e ci torneremo tra un attimo. Abbiamo parlato del blitz contro il clan che operava nel parco dei Nebrodi, del nubifragio a Milano, dell'incendio a Pantelleria, dello show opero degli addetti alla spazzatura in tutta Italia. Appunto, adesso torniamo sul tema dell'accoglienza migranti. Salvatore Malfi, prefetto di Salerno, buongiorno, benvenuto e piacere di averla con noi. Buongiorno ai suoi ascoltatori e a lei. Allora, prefetto, vorrei avere una sua idea di quello che sta succedendo soprattutto dalle vostre parti, perché ovviamente Salerno è un luogo dove arrivano parecchie navi della nostra Marina e della Guardia Costiera che raccolgono i migranti in mare, magari al largo delle coste libiche, e quindi dovete fronteggiare quotidianamente questo problema. Come vi state organizzando e qual è la situazione a Salerno? La Salerno per ora, dato che non siamo come la situazione siciliana, perché Salerno sta fronteggiando gli sbarchi e gli arrivi, ma in tutta onestà devo dire che non siamo nella situazione siciliana, abbiamo avuto un numero questo lo immaginiamo, prefetto, ma insomma, è diversa, diciamo, la situazione. Ciò nonostante, ovviamente, quando arriva la nave noi abbiamo un modulo organizzatorio che mette in priorità il sistema salute dei migranti che arrivano sul nostro territorio, anche per tenere in sicurezza la salute dei nostri cittadini. E quindi oltre a questo aspetto ovviamente ci preoccupiamo della sicurezza come sistema in generale, ma la cosa centrale è che noi cominciamo a fare accoglienza sul nostro territorio spiegando i valori del luogo in cui lo sono arrivati. Noi siamo fermamente convinti che l'unico modo di fare accoglienza e integrazione è quella di assicurarsi della loro salute, ma poi incominciare a trasmettere i valori fondamentali dell'umanità che è patrimonio del nostro paese. Senta, solo spiegando le nostre regole si fa una reale accoglienza, diversamente finisce col dar da mangiare e una visita medica e poi finisce lì. Prefetto, vorrei capire dal punto di vista pratico, Salerno è in grado di accogliere altri migranti oppure no? Salerno, quando arrivano le navi, ovviamente assieme alla comunicazione dell'arrivo della nave, arriva una comunicazione a livello centrale di una distribuzione sul territorio nazionale. Sì. Ovviamente quando arrivano navi, tra i nati, i minori e via dicendo, Salerno accoglie qualche persona in più, come è naturale che avvenga, in ragione della specificità. Salerno ha difficoltà similari a quello del resto della Campania, ma abbiamo in atto tutto un percorso, un progetto con cui siamo speranzosi di rafforzare i rapporti con le amministrazioni comunali e con la stessa Chiesa. E siamo convinti che il percorso tracciato dal sottosegretario Manzione gli ultimi giorni del mattino di rafforzare in maniera concreta la collaborazione con i sindaci sia l'unica strada. Sì, un paese civile e democratico non può che seguire questa strada. Perché questo a volte non avviene, prefetto, lei lo sa, cioè senza voler gettare la croce sui suoi colleghi, però abbiamo interpellato i sindaci che si ritrovano con, diciamo, un'accoglienza gestita dai prefetti come effettivamente deve avvenire, ma senza che loro siano consultati. Cioè magari trovano 100 posti in un ex albergo, abbiamo raccontato il caso di Treviso, e al sindaco non arriva nemmeno una telefonata. Guardi, questo, diciamo così, mi occupo di immigrazione da troppi anni per non dirle la verità. Ovviamente i sindaci hanno la loro posizione, tutto assolutamente rispettabile. Il percorso ordinario è quello dello sfrarro, con cui i sindaci dovrebbero decidere che in ragione del nostro ordinario flusso partecipare e prepararsi ad accogliere i migranti. E quindi se loro seguissero il percorso ordinario il problema non si porrebbe proprio, perché nascerebbe da un loro progetto e rientra nelle loro scelte. Possono scegliere ovviamente di non farli, ma non esiste mai che noi non avvisiamo i sindaci che stiamo per andare a casa loro. Poi tra la condivisione del progetto o la non condivisione è una scelta che ovviamente... Certo, ovviamente che è politica. Prefetto, ma mai un contrasto culturale, però mi comprenda. Il nostro obbligo come prefetti è quello di risolvere i problemi, perché i problemi vanno risolti e la gente non può essere lasciata in mezzo alla strada. Ma nel nostro DNA vi è quello di cercare sempre la collaborazione con i sindaci, anche per quelli che hanno fatto scelte diverse. Noi dobbiamo sempre continuare a tentare di stabilire buoni rapporti con loro. Ultima domanda, per quanto riguarda lo specifico di Salerno, secondo lei quanti altri posti si possono trovare? Molto brevemente. No, io sono speranzoso che troveremo tutti i posti che sono necessari, perché io lavoro per dare una risposta alla mia amministrazione che cerca di assicurare equamente sul territorio una distribuzione, quindi io sono fortemente convinto che i posti che sono necessari non li troveremo, e sono speranzoso che nei prossimi incontri qualunque sia questo numero, prefetto, cioè se le dicono domani ne dovete accogliere 2000. Guarda, la mia amministrazione non è folle, il prefetto Marconi, con cui mi onoro di aver lavorato, sa bene come distribuire in percentuali i posti sul territorio. Siamo un'amministrazione composita, ma non fatta di gente che improvvisamente impazzisce e sbarca 1000 persone in una sola provincia. Abbiamo una distribuzione nazionale che ci ha consentito in questi 2 anni, pur con 1000 difficoltà, di gestirlo. E siamo convinti che in attesa che l'Europa dia una mano, noi riusciremo a fronteggiare. Ovviamente la situazione non è semplice, ma noi dobbiamo risolvere le cose. Ovvio. Diventare positivo. La ringrazio. Grazie Salvatore Malfi, prefetto di Salerno, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Torna da noi Natale Di Cola, segretario regionale Lazio, Funzione Pubblica CGL. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Mi sembra di aver capito che questo sciopero dei netturbini, che oggi secondo voi sindacati nel complesso Italia ha un'adesione al 90%, abbia e stia creando particolari problemi a Roma, almeno stando a quello che leggiamo dai giornali, insomma, soprattutto perché nel fine settimana la raccolta era già ridotta di suo, eccetera, eccetera. Assolutamente sì, e come era prevedibile l'adesione è stata altissima. Oggi in piazza c'erano i lavoratori che chiedono il giusto rinnovo del contratto contro le aziende che vogliono fare licenziamenti facili e vogliono esternalizzare in maniera selvaggia il servizio. Sono settimane che chiedevamo la possibilità di fare un accordo, la chiusura da parte della controparte ha portato alla mobilitazione. È inevitabile, questo ci dispiace, i profondi disagi che stiamo creando ai cittadini, ma imprese... Anche in centro, tra l'altro. Le loro responsabilità. Sì, anche in centro. Da quel che abbiamo letto, però, Nicola, c'è stata anche qualche assemblea spontanea di troppo, forse, a parte del personale dell'AMA in particolare. No, assemblee no. Oggi è successo che alla manifestazione non era prevista tutta la partecipazione che c'è stata e quindi è arrivata più gente. Le assemblee sono state fatte nelle settimane scorse con molta parsimonia, proprio per ridurre al minimo i disagi. Abbiamo provato fino a venerdì a capire se c'era la possibilità di evitare lo sciopero e di arrivare a un confronto, ma la parte datoriale è voluta andare allo scontro e la risposta però è stata massiccia. Adesso ci aspettiamo un passo indietro. Ascolti, abbiamo letto, ed è per questo che nel nostro giro per l'Italia, parlando di questo sciopero del personale che si occupa di queste cose, abbiamo deciso di andare a Roma. Abbiamo letto oggi una notizia sul Messaggero che ci ha lasciati con tanto d'occhi. Dice, il rischio è che, allora, il 2 è un festivo e quindi sono chiusi gli impianti, ci sarà un problema per spostamento, raccolta e così via. Poi c'è il ponte in mezzo, non ne parliamo. E poi dice, ci sono 1000 persone dell'AMA che potrebbero essere impegnate in come scrutatori o rappresentanti di lista o al controllo dei seggi, non lo so, e quindi anche lunedì rischia di essere un casino. Che cosa ci dice Nicola? Ma allora mettiamo in ordine le questioni. Lo sciopero era programmato, da domani mattina riprenderà normalmente il servizio. Il problema del 2 giugno non è un problema dell'AMA, ma è un problema degli impianti, perché gli impianti non sono dell'AMA, sono esterni. Sì, ma la domanda era sugli scrutatori, okay. Ovviamente, a lei non chiedo degli impianti. Ma guardi, no, ma sugli scrutatori, secondo me, il Messaggero continua a fare cattiva informazione come ha fatto nelle scorse settimane. Non abbiamo nessuna di queste notizie, questi numeri non sono veri. Non so se si riferiscono ai dipendenti del comune o dell'AMA o in generale di tutti i dipendenti della macchina capitolina. Quindi non c'è un problema. Il problema dell'emergenza e dei disagi non sarà sicuramente legato alle elezioni. I lavoratori da domani mattina faranno il loro servizio, lo faranno regolarmente. La verità è che Roma già sta in difficoltà nell'ordinario e basta questo... un qualsiasi evento per avere l'emergenza. Questo i romani lo sanno. Questi romani lo sanno bene. Dovuta alla cattiva politica non industriale, perché non avere gli impianti, non avere una chiusura del ciclo e aver fatto le scelte avventate lasciano la città in questo modo. La ringrazio, grazie Natale Nicola, segretario regionale Lazio, funzione pubblica della CGIL. Noi adesso ci fermiamo, poi come sapete Effetto Giorno il lunedì è un po' più corto, avremo giusto spazio per una piccola storia, la storia che arriva da Brescia, dove apre questo mega store dell'IKEA e il sindaco dice: io il trasporto pubblico fino a là non lo faccio perché devo tutelare i negozianti del centro storico. A tra poco con la borsa. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: il procuratore che indaga sulla ragazza uccisa a Roma dice se qualcuno si fosse fermato sarebbe ancora uccisa, l'ex fidanzato ha confessato, l'aveva minacciata e lei ha deciso di non denunciare. Per i migranti, sistema di accoglienza in difficoltà, il Viminale vuole 70 posti in più per ogni provincia, gli immigrati di Ventimiglia dopo lo sgombero intanto sono dentro una chiesa. C'è stato un blitz contro il clan che operava nel parco dei Nebro, di una ventina di arresti scoperti centri nei quali si organizzavano le truffe all'Europa e un macello clandestino. Questa mattina c'è stato un forte nubifragio a Milano, strade allagate, traffico in forte difficoltà in tutta la città, è esondato il Lambro e sono state chiuse delle strade, alberi caduti, è stato di preallerta anche per il fiume Seveso. Pantelleria in fiamme, da 3 giorni un incendio sta colpendo l'isola, come avete sentito poco fa dal sindaco, piano piano lo stanno spegnendo e però è stato proclamato lo stato di, è stato richiesto lo stato di emergenza. La borsa. Pioneer Investments, leader globale nella creazione di soluzioni di investimento. Vi presenta. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, e siamo nella parte dedicata, così come la seconda parte della trasmissione, al nostro giro per l'Italia, e siamo in attesa di collegarci con il sindaco di Brescia Emilio Del Bono, con il quale eravamo d'accordo per fare una chiacchierata su questa sua idea di non sostenere il trasporto pubblico fino al nuovo mega store dell'IKEA. Perché? Perché vanno tutelati i negozi della città, anche se l'IKEA fosse disposta a pagare questo pezzo di trasporto pubblico. Però in questo momento Emilio Del Bono ha deciso di non risponderci, o comunque ha il cellulare spento ed evidentemente non gliela si fa a contattarlo. Quindi nel frattempo vi do un paio di notizie che sono arrivate negli ultimi minuti e che riguardano innanzitutto la vicenda del calcio scommesse, e ci spostiamo a Bari per questa, dove il giudice monocratico di Bari, Domenico Mascolo, ha condannato 5 imputati a pene comprese fra i 18 e i 6 mesi di reclusione. ne ha assolti 13 al termine del processo di primo grado sulle due partite dei campionati di Serie B 2007-2008 e 2008-2009. Parliamo di Salernitana, Bari e Bari-Treviso, che secondo la procura sarebbero state vendute dai biancorossi per complessivamente 220.000 euro. La seconda storia invece arriva da Torino ed è una brutta storia, una notizia arrivata proprio poco fa. Un bimbo ghanese di un mese è morto in ospedale oggi a Torino, dove era stato portato d'urgenza. Aveva subito un arresto cardiaco a pochi giorni dalla circoncisione alla quale era stato sottoposto in casa. Il bimbo era stato soccorso in un appartamento in Barriera di Milano, un quartiere periferico della città. Facciamo una cosa, adesso ci fermiamo, andiamo a sentire Mario Platero con America 24 e poi vediamo se nel frattempo, in questi 5 minuti, Del Bono ci risponde al telefono. Via con Platero.